Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, buon sabato 28 ottobre, l'ultimo sabato con l'ora legale, quindi siamo ancora in estate, ma state con noi fino a mezzogiorno perché in effetti sono molte le notizie su cui vi daremo approfondimenti e vi chiamo la vostra opinione, anzi ve lo dico subito, 800240024, 349-238-6666 per i vostri sms, di che cosa parliamo oggi e quindi argomenti per telefonare, molto semplice, intanto la fine, per così dire, dello scontro su Banca d'Italia con il governo che ha confermato Ignazio Visco, il segretario del PD resta trincerato su no chiaro e netto e i ministri renziani non hanno partecipato al Consiglio dei Ministri. Diteci la vostra, chiamateci, era questo il modo giusto? Vi diremo poi noi come la pensiamo. Un dibattito vero non c'è stato, è diventato una cosa per cui l'Italia si è sbudellata in pubblico per ottenere una conferma senza dibattito. Però detto tutto questo, diteci come la pensate. Ma l'altra notizia è quella venuta ieri a tarda serata, mercati strachiusi, per la prima volta da 15 anni c'è un'agenzia di rating, Standard & Poor's, che migliora il giudizio sul debito sovrano italiano, il cosiddetto upgrade, e quindi questa è una buona notizia, la promozione Standard & Poor's, abbiamo i conti un pochino più solidi, una crescita un pochino più solida, lo dà anche gli interventi sulle banche del governo Renzi, MPS, le due venete, speriamo che non venga sprecato nel dibattito sulla legge di bilancio e in campagna elettorale tutto questo, però buon segno fino a che punto? Lo vedremo. Nel frattempo però noi ci occupiamo anche delle vicende che hanno avuto ieri un precipizio in Catalogna e in Spagna, e anche su questo telefonateci, diteci come la pensate, pensate che sia stato gestito male da entrambe le parti, da una delle due parti, meglio così, oppure stanno perdendo tutti con il ricorso alle vie dure, per così dire, e l'Europa si rivela incapace di un dialogo per un'Europa di più autonomie più che di secessione. Ma comunque diteci la vostra anche su questo, ma noi poi avremo, come stiamo facendo di sabato in sabato, anche una riflessione storica, che è una riflessione storica non solo sul fatto in sé, ma su come viene vissuto a 100 anni di distanza. Approfittiamo dei 100 anni di Caporetto, dal 24 ottobre al 9 novembre, l'arretramento di 160 km del fronte alla prima guerra mondiale con una vera e propria rotta colossale delle truppe italiane. Caporetto insieme all'8 settembre sono le due date militari dell'Italia moderna, due grandi e diverse sconfitte, ma che in entrambi i casi ci dicono di elite, di coloro che decisero, pianificarono e attorno alla guerra, non all'altezza di quello che le loro stesse decisioni imponevano. Ed entrambi i casi però noi abbiamo riammantato nella storia italiana, nella retorica, entrambe le cose, invece di esaminarle fino in fondo, un po' come vicenda bancaria, noi preferiamo raccontare una storia edulcorata, e quindi come l'8 settembre diventa poi il dramma di una nazione che risale, e senza dimenticare però che l'8 settembre è la prova di una classe di gente che scappa, ecco, così Caporetto diventa una storia che per lungo tempo è stato il tradimento da parte dei soldati, sobillati dal Papa e dai socialisti, e dall'altra parte è stata poi una cosa su cui si è preferito il manto della retorica di dire la difesa eroica del Piave e la vittoria del 4 novembre. Ma quale vittoria? Ecco, una non vittoria, perché a crollare furono gli altri più che a vincere noi, e quindi bisogna ancora riflettere sul fatto che nelle difficoltà estreme questo paese, in due momenti così difficili, di guerre così terrificantemente e stupidamente scelte, beh, si è trovato ad avere il crollo di chi la dirige, di chi ne scrive la storia, di chi ne impasta i miti, mentendo. Ecco, di questo parleremo oggi, e chiamateci, ma intanto i compari dei conti da Belva ci raggiungono un po' a strati, perché intanto c'è subito Mario collegato, grazie di essere con noi Mario, ciao! Eccoci, buongiorno a tutti. Caro Alberto ci raggiunge quando iniziamo il blocco alla Banca d'Italia dalle 10.30 e così via. Mario, che altro aggiungere di questa settimana oltre ai blocchetti che ho già detto e con cui cominciamo tra poco con la tua rubrica? Ma dunque, questa settimana c'è stato questo tentativo di offerta per Alitalia da parte di Cerberus, che è questo, come dire, fondo specializzato in operazioni di turnaround, private equity e quant'altro, che ha suscitato qualche fremito patriottico, soprattutto a livello della stampa, nel senso che è stato definito fondo avvoltoio, eccetera. Io ho persino letto qualcuno che diceva, ecco, questa offerta di Cerberus per Alitalia rafforza la posizione dei tre commissari di Alitalia per quanto riguarda le offerte competitive degli altri, in questa sorta di mondo parallelo, no? In cui praticamente arriva un tentativo di offerta esterna, che non si sa nemmeno come verrebbe strutturata, ma io non credo che qua ci sia il vincolo del 49%, perché Cerberus non è una linea aerea, però potrei anche sbagliarmi, e dopodiché tutti felici battono le mani, perché abbiamo evidentemente interesse per Alitalia, e però contemporaneamente attenzione che parliamo di un fondo avvoltoio, quindi direi che il casino è massimo sotto il cielo italiano. Però io mi sono preso la briga di andare a vedere le performance borsistiche dei due maggiori vettori legacy, cioè delle due maggiori compagnie tradizionali europee che stanno faticosamente evolvendo verso una sorta di multi-offerta, nel senso che coprono anche le low cost, e parlo di Lufthansa e Air France KLM. Negli ultimi 12 mesi l'azione Lufthansa si è rivalutata di circa il 130%, l'azione Air France si è rivalutata di circa il 140%. Ora, a me viene in mente, tempo fa, quando Air France incappò in alcuni problemi gestionali, eccetera, la reazione, come dire, contentissima, da pura Schadenfreude, di un politico italiano di destra di lungo corso, che disse: meno male che non abbiamo dato all'Italia ad Air France, avete visto in quale situazione si trovano adesso? Perché gestire le linee aeree tradizionali è molto difficile, e infatti i conti di queste due linee aeree dimostrano quanto è terribilmente difficile gestire una linea aerea. Però abbiamo degli eterni candidati a qualche strapuntino governativo che invocano dalla loro presenza prezzemolina mediatica una nuova IRI per Alitalia. Quindi direi che siamo assolutamente in modalità business as usual. Direi di sì, perché l'evento dell'offerta fatta fuori dalle procedure e dai tempi, oltretutto, del bando di Cerberus, ha fatto dire a tutti: vedete, c'è chi è tutto interessato a comprendere sia l'aviation che l'handling, mentre gli altri vogliono solo separare. Dall'altra parte, ovviamente, gli orrendi speculatori. Tradotto, secondo me, la scommessa che faccio è che l'Italia resta pubblica per moltissimo, moltissimo, moltissimo tempo. E la struttura del Presto Ponte è stata fin dall'inizio congegnata così. Noi non abbiamo mai avuto chiarezza neanche sul bilancio dell'anno precedente, e non l'abbiamo tranne interviste con dei dati in cui ci viene detto stiamo andando benissimo, esattamente come è avvenuto con i commissari dell'ILVA, e infatti è durata anni e anni e anni e non è ancora sciolta, perché anche sull'ILVA stanno di nuovo, udite udite, cambiando idea sull'aggiudicatario della gara, il che è tutto dire. Quindi noi ci terremo ILVA e Alitalia per un lunghissimo tempo ancora nelle mani dello Stato, e quindi ancora una volta lo Stato italiano di fronte a tutto il mondo, mentre di fronte ai bandi e ai tempi che ha detto, ma insomma, per quello che mi riguarda, niente di nuovo. Torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. Allora Mario, direi che questa settimana io ti proporrei di cominciare dalle due vicende che hanno un segno un po' contrapposto, cioè la prima di ieri di Sandra Porr, che in contemporanea, perché si sapeva mezz'ora prima, però coincide con il primo richiamo già formale alla legge di bilancio, quella rigorosa di Padoan da parte di Bruxelles, figuriamoci quella che poi diventerà a dicembre al Senato. E poi dobbiamo per forza capire che cosa può essere la conseguenza di ciò che avviene tra Catalogna e Spagna. Cominciamo dall'Italia. Sì, diciamo l'upgrade di Standard & Poor's, io ho letto rapidamente le motivazioni che rafforzano il mio convincimento che le agenzie di rating, ma non da adesso, bensì da parecchi anni, si muovono, come dire, per opinioni che però ricordano molto quelle dei bar. Sì. O mi ricordano molto anche gli Umarell, no? Quegli anziani signori che osservano i cantieri e danno indicazioni sullo svolgimento dei lavori, perché sono sistematicamente in ritardo, esprimono giudizi non particolarmente approfonditi, perché questo upgrade di un notch, cioè di un livello, è conseguenza della crescita economica e addirittura, secondo Standard & Poor's, tra gli elementi positivi c'è aver avviato la soluzione, la vicenda dei non performing loans. Sì, ora, sì, le banche. Ma che sia avviata soluzione, io ho qualche piccolo dubbio, soprattutto se, diciamo, passerà una versione hard dei precetti della NUI, quindi della vigilanza della Banca Centrale Europea, che includa quindi anche lo stock di sofferenze pregresse. Io sono così, io ho smesso da molto tempo nella mia attività professionale di leggere e ascoltare quello che dicono le agenzie di rating. Questo l'ho scritto anche sul mio blog parecchi anni addietro. C'è una espressione gergale del mio ambiente di lavoro che dice che le agenzie di rating sono dietro la curva, nel senso che sono in ritardo sistematicamente. La cosa più interessante è che adesso noi abbiamo tutte le reazioni pavloviane del tipo siamo stati promossi da Standard & Poor's, no, questo momento di prestigio, poi se per caso dovessero declassarci tra qualche mese tutti pronti a dire le indagini e la rinvia giudizio, i giudici PM con le cravatte tricolori e gli editorialisti di sistema sdegnati, quindi esatto. È un paese che resta schizofrenico all'ennesima potenza. Io mi rallegro e lo dico veramente senza ironia per il fatto che la performance dell'economia italiana in questo momento è veramente positiva, come non lo era da veramente parecchi anni, c'è questo contributo degli investimenti privati, quindi dell'industria 4.0 a spingere la domanda aggregata, questo è sicuramente un dato positivo. Per quanto riguarda, quindi è utile segnalarlo e rimarcarlo, perché così alla fine qualcuno smetterà di dire che noi siamo unidirezionali nella nostra negatività. No, certo. Anzi, io ci aggiungo anche, aperta parentesi, grazie Carlo Calenda, perché l'unico blocco di incentivi che stanno ottenendo un effetto oggettivo, strutturale, rispetto al resto dei 50 miliardi di bonus, mi sembra questo, chiusa parentesi. Io però posso dire che bisogna anche considerare il rovescio della medaglia, cioè questo forte flusso di investimenti. È vero che sono innovativi, quindi è una discontinuità che porterà teoricamente maggiore produttività, anche se poi resta da capire se questi investimenti avranno personale formato, esatto, in grado di gestirli. Però attenzione che questa è una classica fase di anticipazione, sì, di domanda così futura. Quindi non dico che sia parente delle varie rottamazioni delle auto, però somiglia abbastanza. No, ma ne ha le stesse caratteristiche strutturali, questo, esatto, hai ragione. Si vede solo col tempo se poi è una cosa autosostenuta e autosostenibile oppure è un effetto effimero, non c'è dubbio. Soprattutto se non sono tutte le varie leggi, gli esiti delle varie leggi Tremonti, no? Ti ricordi che tutti correvano a comprarsi il capannone? Come no? Abbiamo visto l'effetto. Sì, sì, ma hai ragione, questo hai perfettamente ragione. Per quanto riguarda il richiamo della Commissione europea, mi pare che faccia parte della liturgia e dei riti di passaggio di ogni anno in questo periodo dell'anno. Perché stiamo parlando di 1,7 miliardi scarsi. Sì, ma è più singolare giustamente che si dica, noi vi abbiamo accordato una correzione del deficit strutturale che sarà la metà di quello che era previsto per il percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine. Bene, ve l'abbiamo accordata, ma a me viene una domanda veramente spontanea: come si concilia questo rallentamento del passo di risanamento con il fatto che in Italia è in corso una delle più vigorose espansioni economiche degli ultimi anni? Cioè, non è che siamo lievemente prociclici, certo, ma però poi è vero che Padoan parla giustamente di sentiero stretto, per cui si sta cercando, anche per non consegnare il paese alle forze populiste, questa è la frase che gira ovviamente nelle cancellerie europee a Bruxelles, frase che ha un suo fondamento, si sta cercando di far respirare i conti italiani. Però se i conti italiani respirano a botte di mance, c'è motivo di essere preoccupati, perché allora io ribadisco quello che ho già detto più volte nelle ultime settimane, a costo di apparire oramai sulla via del rincoglionimento presenile. No. Se il rapporto debito-PIL italiano dovesse effettivamente piegare, ridursi, come è scritto nel DEF e come Padoan segnala da tempo immemore, e quest'anno e il prossimo potrebbero essere il momento decisivo per raggiungere questo risultato, noi siamo certamente in predicato di ottenere ulteriori promozioni dalle agenzie di rating, però quello sarà il momento più difficile, perché lì inizierà il più grande assalto alla diligenza della storia italiana moderna, perché tutti vorranno la loro mancia, tutti vorranno il loro tesoretto, dicendo: ma se il debito sta riducendosi rispetto al PIL, è giunto il momento di ripagare in nome del popolo stressato. Quindi vorranno pensioni con età progressivamente ridotta e non stoppata, nuovi fondi da redistribuire, il bonus per i figli che hanno meno di 18 anni, il bonus per i gatti di compagnia, e ci saranno tutte queste cose che metteranno a rischio l'avanzo primario. Io non voglio mettere ovviamente il carro davanti ai buoi, mi auguro per il bene del debito pubblico italiano e di tutti quelli che sono investiti in esso, direttamente o indirettamente, ad esempio tramite fondi pensione, perché questa cosa tende a sfuggire, o polizze vita, mi auguro che il rapporto debito-PIL possa finalmente calare. Perché su questa strada, se sapremo gestirla, forse riusciremo a entrare, non dico su un sentiero virtuoso, ma su un sentiero di normalità di cui questo paese ha un fottuto bisogno. Ma guarda, io ti dirò che io considero che la politica italiana destinerà zero attenzione all'altro fatto molto rilevante che questa settimana è avvenuto, nelle attese dei mercati, come l'abbiamo commentato, gestito bene a differenza di quanto fece la Banca Centrale Americana quando diede l'annuncio dell'oramai accelerazione dell'inversione della politica monetaria non ortodossa, cioè la decisione assunta dal Consiglio della BCE questa settimana di dare dei tempi, insomma si parte da gennaio con la riduzione a 30 miliardi di acquisti ogni mese e poi si arriva a settembre e dopo settembre resta aperto un no dei tedeschi sulla continuazione e una disponibilità degli altri, della maggioranza. Ma detto questo, la politica italiana a questo non ci pensa minimamente. E non pensa minimamente che aumenterà il costo medio del debito, non pensa minimamente a quali possono essere davvero dei due scenari, quello più preoccupato e quello ancora più preoccupato contenuti nella nota di aggiornamento del DEF in caso di ripresa del ballo dello spread, che avranno conseguenze serie sui conti pubblici e sul rallentamento dell'economia italiana, non ci pensa. E del resto questa settimana abbiamo avuto la conferma, il ministro Martina per conto di Renzi ha già detto ufficialmente a Gentiloni che sulle pensioni il PD non la pensa come Gentiloni e Padoan, quindi il PD in Senato chiederà che salti l'avanzamento automatico al 2019 del requisito anagrafico di 5 mesi in più per la pensione di vecchiaia, e questa è una posizione ufficiale del PD, quindi neanche dell'MDP, della sinistra del PD, che farà richieste ancora più avanti, più progressiste, più scassa conti, se mi permettete. Vedremo tutto in Senato a dicembre e chissà, forse è bene che l'abbiano fatta oggi l'upgrade quelli di Standard & Poor's, perché io sono convinto che tra due mesi non lo avrebbero più fatto. Ma invece sentiamo come la pensi su Catalogna e Spagna. Ma è una vicenda per molti aspetti surreale. Io ci terrei a segnalare a tutti i sostenitori della causa catalana che non è che la totalità del popolo catalano si è sollevata contro gli usurpatori madrileni, è circa metà della popolazione, è una fuga in avanti, ci sono procedure costituzionali, questo implica che probabilmente bisognerebbe studiare una riforma profonda dell'organizzazione statale, perché alla fine la Spagna resta uno stato centralista in finanza pubblica largamente derivata, cioè dove le autonomie locali hanno flussi, come dire, perequativi che ricordano sinistramente quelli italiani, anche se un po' meno. Magari se lo Stato spagnolo evolvesse verso una struttura federalista, genuinamente federalista, forse, ma ripeto, qui siamo nell'ambito delle ipotesi, anche i catalani potrebbero accettare un esito di questo tipo. D'altro canto, come abbiamo visto e detto nelle settimane scorse, la risposta immediata a questa secessione catalana è stata la fuga di aziende che stanno praticamente svuotando come sede legale il contenuto di PIL catalano, in prospettiva questi si sposterebbero tutti da un'altra parte e alla fine probabilmente avremmo, come dire, un esito di svuotamento progressivo. Però il problema qual è? Che come sottolinei tu più volte, hai sottolineato tu più volte, non è che lo status quo è la risposta, perché alla fine ci sono delle istanze autonomiste profonde, in alcuni casi sono illusioni portate avanti da strati della popolazione che purtroppo sono affette da una versione, come dire, maligna di nazionalismo o malinformata di nazionalismo, senza rendersi conto che viviamo in un mondo interdipendente. Però bisogna anche dire che non è sufficiente dire sì, però lo status quo è questo, ve lo tenete sino alla fine dei tempi e arrangiatevi, perché anche questa non è una risposta. Cioè l'idea sarebbe quella di migliorare i rapporti tra centro e periferia attraverso riforme dello Stato. Io sono molto d'accordo con quello che dici, perché io penso che sia, per così dire, coerente alla rilettura che ogni tipo di ordinamento, ogni costituzione, nulla è per sempre nella vita, neanche l'euro può essere definito se non con uno sforzo di razionale ottimismo per sempre. Nulla è per sempre, ma le regole non lo sono, e soprattutto gli ordinamenti evolvono anche, devono evolvere anche per essere, restare efficienti, con i tempi che sono i tempi, diciamo, medi dell'evoluzione, della trasformazione degli eventi sociali ed economici. I nostri tempi sono naturalmente quelli della comunicazione just in time digitale planetaria, i tempi sono accelerati, gli ordinamenti dovrebbero riuscire a stare dietro a questi tempi che impongono fenomeni interpretativi pubblici, strumenti di intervento sui mercati, lo abbiamo visto nelle crisi, i grandi paesi, le banche centrali che hanno intervenuto con dei stop loss bancari subito sono stati i più efficienti di fronte alla crisi. Chi ha detto abbiamo le banche solide? Fai conti ancora oggi. Allora, penso per questo che sia un pessimo giorno, quello per tutti, per gli spagnoli, i catalani, ma anche per gli europei. Non saper far evolvere vecchi stati nazionali in più autonomia, non in secessione, ma in più autonomia, in un'Europa delle regioni, per correre meglio nella globalizzazione, con poteri devoluti verso l'alto, perché questo chiede l'Europa, la globalizzazione, la vigilanza dei mercati finanziari e le regole comuni del commercio mondiale, ma con più poteri anche verso il basso, senza spezzare questo rottame che è il vecchio stato nazionale, ma lasciandolo lì com'è, ma ricostruendone i rapporti col basso e con l'alto. Ecco, se non abbiamo classe dirigente capace di fare questo, vuol dire che abbiamo pochi statisti, molti nostalgici degli opposti estremismi, quelli nazionalisti e quelli identitari delle piccole patrie, ma di sicuro non abbiamo un tessuto efficiente, quello che consente a grandi stati federali e a grandi unioni basate su questo principio di funzionare, infatti non a caso meglio nella globalizzazione. Mi limito a dire questo, per me è una pessima giornata, io non festeggio. Rajoy ha avuto quello che voleva da 11 anni, ha considerato lo statuto catalano del 2006 il primo obiettivo della sua vita che andava smontato e ci è riuscito. Mi levo il cappello di fronte alla sua abilità, ma mi fa orrore la ferocia con cui l'ha perseguito, prima scommettendo sul radicalismo catalano e poi coi catalani che con il loro radicalismo sono andati dritti in faccia al muro, perché così perdono tutti. Torniamo tra poco. Della belva. Ed eccoci qui tornati in diretta a 10:36 primi e 22 secondi in questo che è l'ultimo sabato dell'ora estiva, per così dire, prima che poi dormiate una notte, un'ora in più questa notte. Siamo qua a porci il problema. Nomina confermata, quindi mandato confermato al governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Apprezzo una rottura molto forte, arrivata in extremis, l'iniziativa del segretario del PD, la risoluzione parlamentare, ne abbiamo parlato sabato scorso, poi questa settimana la conferma con una procedura che vede i ministri renziani non partecipare al Consiglio dei Ministri, con cui Gentiloni, allineato sulla posizione del Quirinale, conferma l'indicazione di Ignazio Visco per altri anni alla Banca d'Italia. Il Repubblica oggi titola la grande rottura nel PD, con delle pagine, lo strappo del PD, pagina 2, pagina 3, lo sconcerto degli altri dem, cioè gli appartenenti al PD non renziani, al governo, se in Sicilia va male si ridiscute tutto, il dissenso di Franceschini, l'affondo di Orlando, con l'eschimo sulla grisaglia non rubiamo voti a Grillo, dice Orlando, e in ogni caso bisogna essere pronti a discutere tutti perché, aggiunge il ministro della giustizia, in pochi giorni bruciata anche l'ultima risorsa, cioè Gentiloni. Questo è lo sfondo politico, l'interpretazione che ne danno i giornali. Nel merito, io mi limito a dire, ci avete sentito per anni parlare delle vicende bancarie, dei problemi della regolazione italiana, dell'ipocrisia di aver detto per anni che avevamo il sistema bancario più solido del mondo, poi della maniera in cui le classi dirigenti italiane hanno celebrato un'autoassoluzione prendendosela con le nuove regole europee, mentre gli altri erano intervenuti a livello nazionale, giustamente in fretta per fare lo stop loss bancario, anche con ingenti capitali pubblici perché le regole lo consentivano. Noi abbiamo chiesto invece di farlo dopo, quando le regole non lo consentivano più, regole approvate dalla politica, tranne che tutti i politici sono scappati dicendo che le avevano imposte i tedeschi, evidentemente invadendo l'Italia con i panzer. La Banca d'Italia ha dato una storia retrospettiva di cui non sapevamo nulla fino al decreto delle quattro banche del novembre del 2015, di un suo eroico combattimento in Europa, ripeto, condotto nel silenzio totale perché nessuno in Italia ne ha mai saputo niente, proprio contro la BRRD. È iniziata poi la contestazione della BRRD, di ogni regola europea comune, protratta fino alle nuove regole per gli accantonamenti di capitale fino al 100% a 7 anni per i crediti deteriorati unsecured. Anche in questo caso la Banca d'Italia ha il fiere della contestazione dura, brutale alle regole europee. Noi abbiamo chiesto un dibattito serio su tutto questo negli anni, non affisato, incardinato sulle persone, non l'abbiamo mai avuto, e alla fine c'è questa conferma del governatore sullo sfondo, una commissione di indagine parlamentare, anzi di inchiesta parlamentare con i poteri della magistratura, che non avrà i tempi per fare nulla, lo sappiamo tutti che è così e che è stata congegnata così, ma ciascuno dirà quello che vuole in campagna elettorale. E il segretario del PD è un pezzo fondamentale del PD, non mi sembra una questione politica irrilevante, che dice è comunque un grave errore. Per discuterne, oltre a Mario che resta con noi, Mario, ci sei sempre? Sì, certo, sono qui. Ecco, caro Alberto, che tra l'altro mi deve una birra perché aveva scommesso che Visco andava a casa mentre io gli avevo detto guarda siamo in Italia, Visco verrà confermato. C'è caro Alberto? Ci sono, appena comprato un barile di birra. Ecco, purtroppo, come vedi, il mio realismo disincantato, cioè perché non ero un tifoso, però ha vinto, quindi me la dovrei pagare questa scommessa. Carlo Alberto, cominciamo da te, poi andiamo ai nostri due ospiti. Sei deluso? No, non sono deluso, sono amareggiato perché ancora una volta non vince la trasparenza, l'accountability, ma vince la logica per cui in Italia chiamiamo l'incompetenza continuità e garanzia. Incompetenza, gravissima cosa. Sì, ma no, perché dici? Incompetenza, scusa, è una inadeguatezza rispetto a nuove regole, questo voglio dire. Siccome sono cambiate le regole, ma le logiche sono quelle vecchie, per me uno è un incompetente, uno che non ha ancora capito che deve ragionare secondo le linee guida europee e non secondo le tradizioni italiane, e che non c'è più la specificità del modello italiano bancario, ma c'è una convergenza verso un modello bancario europeo. Questo è adesso vuoi la delusione. Ma le classi dirigenti, ma non è solo la politica. Io vorrei che voi capiste, il professore della Bocconi, che non è solo la politica che non capisce. Le classi dirigenti italiane, quelle degli, che rappresentano, non lo che sono, che rappresentano l'impresa, la finanza, i soci bancari, i manager bancari e così via, sono tutti d'accordo a quadrato nel fatto che l'eccezionalità italiana c'è, uno, due, se no non avrebbero riempito i giornali in queste settimane come se la Banca d'Italia fosse ancora chissà che cosa. Perde persino il controllo sulle banche di credito cooperativo dal gennaio del 2018, eppure tutti l'hanno rappresentata come se fosse una battaglia, capisci? Baffi, hanno osato parlare di Paolo Baffi per Ignazio Visco, e io mi stupisco che Carlo Alberto non lo capisca questo. Ma è così, il fatto che la Banca d'Italia è parte dell'eurosistema, deve essere, come dire, il rappresentante italiano di un modello di capitalismo finanziario europeo. Tra l'altro, diciamo, nei prossimi anni ci presenteranno non soltanto la Unione Bancaria, ma anche la Capital Market Union, quindi un ripensamento profondo della struttura di capitale delle imprese e quella delle banche. Quindi tutto l'attivo bancario e tutto il passivo bancario verrà ripensato. E a me servono persone che sanno dove andare, in quella direzione, non che siano custodi della continuità. Caro Alberto, le classi dirigenti italiane vogliono sperare di una Banca d'Italia pronta a tornare all'esercizio dei poteri di sovranità monetaria, te lo traduco ma ancora figurati, più chiaro. Io penso di sì, penso di sì. Se lo scordano, io spero che se lo debbano scordare, perché spero che la ragionevolezza politica dei tre prevalga. Però io sono convinto che questa sovrarrappresentazione del problema, superfetazione, il problema di Banca d'Italia, che in realtà vive una nostalgia per i poteri perduti, a cominciare da quelli di vigilanza, ma prima ancora quelli sui tassi di interesse, per questo continua ad avere un organico di questo tipo e così via, e non si può toccare, perché sennò ti arriva subito la lettera mandata dal direttorio tramite un sindacato dell'azienda che ti dice: abbiamo diminuito il nostro numero. Siete migliaia e migliaia, ragazzi, su, per forza, ma non raccontiamoci. Detto questo, allora, abbiamo in tutto il tempo che ci resta fino alle 11 però due ospiti la cui opinione è preziosa e che abbiamo scelto in ragione di quello che sono, di quello che scrivono e di come pensano. Il primo è Luigi Maratini, e io lo ringrazio perché è professore economista all'Università di Bologna e oltre a consigliere economico della Presidenza del Consiglio. Grazie di essere con noi, Maratini. Buongiorno, grazie a voi. E poi una delle penne che a me piacciono seguire più ogni giorno, non è detto che sia d'accordo, ma imparo sempre da anni, Giorgio Meletti, che è giornalista del Fatto Quotidiano. Buongiorno e grazie a te, Giorgio. Buongiorno. Maratin, che dice di questa vicenda? Insomma, la modalità ammetterà anche lei, se uno ha in mente come si fanno le nomine nelle banche o nelle banche che sono parte dei sistemi di banche centrali. Beh, l'Italia è proprio dato un esempio pessimo di fronte al mondo. Non sto discutendo, prima del merito, il metodo, Maratin, secondo lei? Ma guardi, mi ha rubato le parole, perché proprio avrei diviso il problema in metodo e merito. Sul metodo, ma vedete, prima o poi verremo a patti col fatto che l'avvento di Renzi nella politica italiana, qualsiasi cosa si possa pensare di Renzi e delle sue politiche, ha prodotto una discontinuità nei rituali, nelle liturgie della politica. Cioè, cosa si sarebbe fatto qualche anno fa? Un segretario che aveva una posizione di quel tipo su una prerogativa non sua, perché una prerogativa del Presidente del Consiglio, del Presidente della Repubblica, avrebbe detto parole a mezza voce, o fatto cene, o mandato segnali, perché i libri della politica dicevano così, mai esporsi, eccetera. Renzi, nel bene e nel male, ragiona in un altro modo. Aveva una posizione politica chiara e l'ha messa fuori in maniera trasparente, prendendosi anche le conseguenze, perché con la riconferma di Visco si espone anche a dire: vedi, allora tu. Invece il nuovo codice, diciamo, che Renzi ha imposto alla dialettica politica in questo paese, è un codice fatto di trasparenza, che si può pensare diversamente anche nello stesso partito, anche quando uno fa il Presidente del Consiglio e l'altro il segretario del partito, e poi si va avanti. Quindi io questa discontinuità la rivendico personalmente. Per quanto riguarda il merito, io sono d'accordo con quanto dicevate voi, nel senso che il problema è che si continua a ragionare come quando la Banca d'Italia aveva competenze che ora non ha più, cioè politica monetaria e vigilanza, perché gran parte della vigilanza adesso in realtà non ce l'ha più, e quando il sistema bancario nazionale, ricordiamocelo, fino a 20 anni fa era fatto da enti di diritto pubblico. Yes. Per aspettare l'amministratore delegato di una banca bisognava aspettare il risultato di un congresso di partito, non la selezione internazionale pubblicata sull'Economist. Quindi questo paese, come tante altre cose, ha fatto fatica ad adeguarsi a un cambio di passo, ma su tutto, sulle banche, sulle imprese, sulla pubblica amministrazione, sulla scuola, sull'università, e questa vicenda in parte ne è un riflesso, fermo restando che nessuno mette in discussione la competenza del governatore Visco e soprattutto la prerogativa della nomina, che è del Presidente del Consiglio, per che l'ha esercitata in autonomia, e del Presidente della Repubblica. L'importante è che questo dibattito prosegua, perché come veniva benissimo ricordato prima da Carlo Alberto, nei prossimi anni si continuerà a stravolgere l'assetto finanziario e bancario italiano e non solo, e occorrono istituzioni che siano al passo con questi cambiamenti strutturali di cui, secondo me, a mio avviso, negli ultimi 25 anni non abbiamo fatto abbastanza i conti. Torniamo tra un minuto. Della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta con i compari, con Mario collegato e con Carlo Alberto collegato e sono con noi Luigi Maratin e Giorgio Meletti. Io voglio capire, Giorgio, l'opinione tua sul fatto che questa singolarità, perché abbiamo fatto una commissione parlamentare d'inchiesta unicamente perché servisse, perché solo questo sarà il vero effetto, come buca delle lettere di un dossier di 4600 pagine, che è il dossier con cui in realtà le scrivono i giornali, non io. Visco si difende evocando attacchi a Renzi che l'ha attaccato. Tutto questo come una commedia in cui si proiettano le ombre cinesi sui muri, perché niente è sostanza, di niente si può discutere, e però alla fine ottiene la conferma Visco. Che ne pensi, Giorgio? Che sia una presa in giro e che è tanto più grave in quanto protagonista di questa presa in giro al Parlamento italiano e agli elettori italiani. Questa presa in giro è fatta dal presidente della commissione Pier Ferdinando Casini, il quale ha ricevuto da Palazzo Koch un dossier di carte segrete che vengono quotidianamente distillate ai giornali amici, che queste carte, che non sono state ancora consegnate ai commissari, vengono distillate ogni giorno. C'è qualche giornale amico che dice: ah, ma Visco scrisse una lettera, nel dossier c'è una lettera che dice eccetera. Questo è il degno coronamento di una vicenda assurda di cui dovremmo vergognarci, altro che prestigio internazionale. Se la nomina del governatore della Banca d'Italia venisse fatta seguendo le regole con cui la Chiesa Cattolica elegge il Papa, l'Italia farebbe un passo avanti verso la trasparenza e la democrazia. Sai che non ci avevo mai pensato, mi sa che hai ragione. Non è che ho ragione, sono i fatti. Si riunisce un conclave di un centinaio abbondante di cardinali che, pensate un po', discutono. Esatto. Cioè, i cardinali discutono quale sia la via più saggia, perché sia fatta la volontà di Dio, cioè l'indicazione del nome del Papa viene dallo Spirito Santo, a quanto dicono le regole istituzionali della Chiesa, eppure la volontà dello Spirito Santo è sottoposta al voto del conclave. In Italia invece, diciamo al di qua del Tevere, la scelta del governatore della Banca d'Italia è sostanzialmente un rito massonico in cui la prova della follia di tutta questa storia ve la do immediatamente. Ma se Renzi fosse stato presidente del Consiglio, avesse vinto il referendum dell'anno scorso e fosse ancora oggi stato presidente del Consiglio e avesse deciso di mandare a casa Visco, che cosa avrebbero detto le vestali dell'indipendenza e dell'autonomia? Questi che si strappano scommetto quello che vuoi, che la stragrande maggioranza di loro avrebbero scritto estasiati: come ha ragione Renzi. oppure avrebbero detto che c'era quello che hanno detto nel 2011, quando nel 2011 Berlusconi stava per nominare il nuovo governatore e c'era il sospetto, il timore che nominasse qualcuno troppo amico suo. C'è stata una levata di scudi chiedendo la condivisione e chiedendo di ascoltare l'opposizione e il Parlamento. Vero. Cioè, è fatta questa cosa dagli stessi che oggi dicono che è eversivo il fatto che il Parlamento metta bocca. Questo per dirti, quindi siamo... è una colossale presa in giro che si corona la prossima settimana, quando avverrà una cosa che grida vendetta. La commissione parlamentare d'inchiesta, che secondo me nemmeno i membri hanno capito bene, gli hanno spiegato cos'è una commissione parlamentare d'inchiesta, audirà nella stessa mattina, cioè con tempi e metodi da talk show, sia il direttore, prima il direttore generale della Consob Apponi, e poi il capo della vigilanza di Banca Italia, Barbagallo. Ora voi vi rendete conto, una commissione parlamentare d'inchiesta che audisce Barbagallo, se fa seriamente il suo lavoro, bravo, questa audizione deve durare un mese. Sì, ma non sono d'accordo, cioè io sono non senza due parole, ore, ma non c'è dubbio. Non no, due ore. Stiamo parlando quindi, siamo al di là della presa per i fondelli, scusami, proprio io su questo voglio dire, mi dispiace per presidenti dei parlamenti, presidente Casini, siete al di là del tollerabile, cioè ciascuno di noi che si occupa di queste cose sa il rilievo delle cose di cui stiamo parlando, sono vicende delicate e distinte l'una dall'altra, così siete peggio del peggio della caricatura, cioè siete la conferma del fatto che la democrazia parlamentare così è al servizio di chi dice che non serve a niente, perché siete peggio di una caricatura, siete un'offesa. Questo voglio sottolinearlo prendendomi la responsabilità, so che al mio editore non piace dirla in questi termini, però Però Oscar, sottolineiamo anche un altro punto, se mi senti, che abbiamo celebrato il principio dell'autonomia nazionale, della continuità di fronte a uno scenario, qui riprendo Luigi Maratin, che invece ci pone discontinuità di processi e integrazione con l'Europa, quindi proprio i valori promossi, anche quelli proprio qualitativamente, sono quelli sbagliati. Noi abbiamo lo stesso governatore del 2011. Il 2011 era un altro mondo, non c'era l'unione bancaria, non c'era la BRRD, non c'era i principi di sorveglianza. Ma è questo il mio concetto, non guardo al passato, guardo al futuro. Io voglio un'Italia che sia pronta con un sistema finanziario moderno integrato in Europa. Questo è il mio rimpianto, non solo i riti, se posso, delle finte commissioni d'inchiesta. Questo è il problema. Non ci serve un'autonomia nazionale finta, una continuità, diciamo, sbagliata. Ci ecco, serve un'integrazione però, con l'Europa, caro Alberto, il mio problema è che io piuttosto che cioè, dal nostro punto di vista, quel che ci serve l'abbiamo spiegato agli ascoltatori, ma non possiamo far finta di non vedere che a prevalere non siamo noi. A prevalere è una vasta condivisione nei poteri che contano in Italia di una valutazione, caro Alberto, opposta alla nostra. Per questo chiedo a Luigi Maratin, che ha insieme la consapevolezza, la conoscenza, insegna precisa di ciò di cui parliamo, sa che non stiamo esagerando per questioni politiche, ma insieme fa battaglia politica. Come si risponde politicamente al prevalere di chi dice non si discute, Maratin, brevissimamente? Ma guardi, anche la riforma delle banche popolari in teoria andava contro quel concetto. E l'avete fatta, per fortuna. Come dire, così anche sulla commissione. Guardate, io l'avrei voluta farla partire prima. Ecco. Però un attimo, prima di celebrarne il funerale, aspettiamo di vedere se potrà lavorare durante Seguiamo questo consiglio speranzoso di Maratin. Intanto grazie a Meletti e Maratin, noi dopo Giornale Radio torniamo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta alle 11:07 primi e 8 secondi in questo sabato, ultimo estivo per via dell'orario, insomma il 28 di ottobre, e i compari dei Conti della Belva sono collegati con me, Oscar Giannino, se abbiamo Mario. Eccoci. E Carlo Alberto. Sono qua, pie fermo sul fronte a combattere. Senti Mario, però devi dirci anche tu che pensi dell'esito di questa vicenda di Banca d'Italia alla fine. Ah, volentieri. Allora, io come avevo già detto in un incontro televisivo a cui era presente anche Maratin, credo che questa vicenda è nata male e finita peggio per un problema di tempistica, nel senso che questo discorso si doveva fare probabilmente un anno e mezzo fa, cioè mettersi attorno a un tavolo e discutere. Però siccome il governatore della Banca d'Italia è un primus inter pares, che facciamo? Facciamo di Ignazio Visco il capro espiatorio e lasciamo intatto il direttorio, che fa pure rima, mi sento un poeta? Allora, il problema è una reazione tardiva, panicata, da inseguimento delle forze populiste e delle reazioni, come dire, antisistema, gestita male da Renzi, che probabilmente però porta a casa qualcosa, non so che cosa esattamente, perché di solito la gente tra l'imitazione e l'originale preferisce l'originale, cioè preferisce Grillo, preferisce i leghisti e quant'altro. Quindi per me questa è una vicenda che per l'ennesima volta, ammesso che a qualcuno in Europa freghi qualcosa del quotidiano teatrino italico, mette in mostra quanto siamo inaffidabili e quanto siamo dei poveri teatranti sulla scena europea che si accapigliano e dopodiché, come i ladri di Pisa, vanno tutti a pranzo assieme, mentre i ladri di Pisa rubavano la notte e litigavano di giorno. I ladri di Pisa italiani si accapigliano nei momenti topici dei teatrini televisivi e nelle sedute parlamentari o nelle buffonate di commissioni parlamentari d'indagine, perché di quello si tratta, una buffonata per tempi, modi, genesi e sviluppo, e non cambia niente, perché non stiamo parlando, ripeto, del nuovo Papa, anche se chiaramente la similitudine di Giorgio mi è piaciuta moltissimo. Stiamo parlando della elezione, diciamo, della designazione di un gran commis di Stato, cercando di fare apparire il processo il più, come dire, asettico, meritocratico e distaccato possibile. Alla fine abbiamo fatto l'ennesima pessima figura, però andava fatto questo discorso ben prima, bisognava mettersi in movimento ben prima. Sì. Avrei appoggiato la tesi di Renzi se si fosse solamente mosso prima. Ma l'avremmo appoggiata a tutti, è conseguente, esatto, a quello che abbiamo fatto, esatto, come analisi pubblica per anni, ma non, esatto, solo con Visco come persona, hai ragione tu, riguarda tutto il direttore, ma riguarda l'interpretazione dei poteri della banca, cioè, quindi è una questione seria. Comunque, detto tutto questo, non avremo quello. Io faccio una previsione: se Renzi la scampa con la politica, perché tra Sicilia e politiche poi Renzi dovrà combattere molto tenacemente, secondo me, visto i risultati che a oggi sembra in grado di ottenere, non esattamente trionfali. Beh, per Visco, auguri, questo è quello che con la consueta procedura di maschere e pugnali e veleni dell'Italia del 600 mi sento di dire. Allora, qualche telefonata, cominciamo con Giulio che ci chiama da Verona. Giulio, che mi dicono ci chiama per Spagna-Catalogna, Giulio, vero? Sì, certo. Volevo riportare l'argomento, l'attenzione, perché in Italia si è presentato male il problema catalano. Io ho vissuto per 22 anni, sono andato una settimana al mese come tecnico in Spagna, base a Catalogna, e giravo per tutta la Spagna, quindi ho potuto verificare con mano, toccare le evoluzioni, i cambiamenti. Io, per far ragionare, non spiegare, anche perché ho condiviso molto con una persona, un vostro ospite, che aveva come rappresentato il problema, che se l'avessero fatta in maniera diversa probabilmente le cose sarebbero terminate in una maniera diversa. Faccio un esempio: mettiamo che in Italia domani mattina il governo X, preso da un qualunque presidente del Consiglio, prenda la provincia autonoma di Bolzano e gli tolga i suoi, diciamo, le sue agemonie. Bravo Giulio, perché l'origine della radicalizzazione è questa, è la Corte Costituzionale spagnola che nel 2006, cioè che nel 2012, esatto, smonta lo statuto del 2006. Immagina cosa succederebbe, succederebbe quello che succede, perché i catalani hanno una loro storia, una loro cultura, io sono veneto, questo però non vuol dire secessione, vuol dire lasciare delle agemonie. Ma se in Italia abbiamo un esempio classico, la provincia di Bolzano, che ha delle particolari, diciamo, convenzioni, diciamo, per cui ha delle gestisce autonomamente un sacco di cose. No, gestisce, ha un'autonomia che è uguale solo in quella siciliana, anzi in quel caso è ancora più, persino più forte di quella siciliana, quella delle due province autonome, che sono i veri attori, la regione è una finzione, le due province autonome, quella di Trento e Bolzano. Grazie Giulio, sentiamo Mario. Mario, sempre credo sulla stessa questione. Da Roma? Da Roma, sì, Mario da Roma. Buongiorno, senta, io penso che il referendum in Catalogna è stato approvato dal 90% dei cittadini e nel Veneto dal 57%, non capisco perché la Lombardia viene messa sullo stesso piano del Veneto, avendo il corpo elettorale in minoranza, diciamo, attribuito il sì al referendum. Quindi Maroni l'ha perduto il referendum, Zaia l'ha vinto. Quindi io questa precisazione la ritengo importante. Poi il Veneto... Mi scusi, ma in che senso Maroni l'ha perduto? Perché il 39% dei sì. Com'è il 39% dei sì in Lombardia? No, scusa, hanno dato questi... No, scusi, un conto... Aspetta. Sì. No, la partecipazione è 39%. I sì su quel 39% sono 90%. Come l'ha perduto il referendum Maroni? Ah, vabbè, allora mettiamo che non l'abbiano. Sì, sì, d'accordo. Io, no, allora, no, no, no, no, perché allora, un conto è se lei mi dice, se lei mi dice, hanno partecipato. Aspetti, aspetti. No, ce l'ho con lei. Aspetti, sto dicendo. Un conto è se mi dice in Veneto comunque c'era un quorum e quel quorum è stato amplissimamente superato. Hanno votato il 60% e di quel 60% il 90% 93-94% mi ricordo in questo secondo ha votato sì, e quindi il voto del Veneto è un voto di vittoria. In Lombardia, dove il quorum del referendum consultivo non c'era, però hanno votato meno del 50%, ed è vero che politicamente la minor partecipazione molto più bassa in Lombardia è un fatto politico, su questo ha ragione lei, quindi non c'è dubbio, non è tanto sulla vittoria formale male o meno, però è vero che in Lombardia non è vissuta con la stessa forza e intensità del Veneto, che ha una storia diversa, la Repubblica della Serenissima, insomma, voglio dire, c'è stata e la Lombardia non ce l'ha avuta e così via. Detto tutto questo, io mi limito a dire a Mario che in realtà è sbagliato fare un qualunque accostamento tra il referendum incostituzionale sulla secessione catalano, figlio della radicalizzazione e di essersi buttati da una parte all'altra in una strada senza uscita, con la richiesta che è rigorosamente in linea con la nostra Costituzione, fatta da Lombardia e Veneto. Perché l'hanno fatta? Perché la Corte Costituzionale italiana in precedenza aveva bocciato tutte le richieste di referendum secessioniste che erano state fatte nel nostro paese. Quindi noi in realtà abbiamo fatto un passo avanti con più, tra virgolette, intelligenza politica di quanto non abbia fatto la Spagna di Rajoy e di Puigdemont. Perché anche qua abbiamo avuto le richieste di referendum secessionisti. Anche qua la Corte Costituzionale le ha bocciate e qui non abbiamo messo mano alla violenza e siamo arrivati ai referendum per più autonomia, per un'Europa delle regioni, come dico io, e non solo i vecchi stati. La Spagna invece, per un calcolo politico rigorosamente contrapposto e secondo me disinteressato ai veri interessi nazionali, perché per esempio farsi così male nella regione che traina l'economia spagnola è un disastro e dovrebbe considerarla così anche Madrid, e invece Rajoy è indifferente a questo, vuole che in Catalogna restino macerie per anni perché è un vecchio nazionalista da questo punto di vista. Ecco, l'Italia in questo, secondo me, è raro sentirmelo dire, ma ha dimostrato più intelligenza e capacità di sapere maneggiare questi temi di quanto non abbia fatto la Spagna, la Catalogna. Non so come la pensi Carlo Alberto su questo. Sì, sono d'accordo, assolutamente. Il nostro regionalismo, dopo qualche intemperanza degli anni 90, si è indirizzato nella direzione giusta. C'è da dire un'altra cosa: Veneto e Lombardia sono così saldamente ancorate ai processi economici europei e internazionali che francamente alle secessioni, se ci hanno pensato, non ci pensano più. E quello che è successo in Catalogna, cioè il voto delle imprese e delle banche, è un peso importante nelle decisioni del popolo del Lombardo Veneto. Quindi hai ragione, Oscar, sono d'accordo con te. Senti, Mario, ma vogliamo dire una parola su questa cosa che è sparita dai giornali italiani, ma noi li seguiamo tutti i giorni. Cari ascoltatori, guardate che la Brexit in Gran Bretagna ha preso una piega fuori da ogni controllo, cioè oramai è una pantomima quotidiana, lo dico con rispetto per le difficoltà del primo ministro May nel suo partito. Oggi, ogni giorno in Parlamento non sanno più dove sbattere la testa, Mario. Anche quella vicenda qualcosa ci deve insegnare, però, no? Beh, ci deve insegnare quello che noi diciamo da quando questa vicenda è esplosa, cioè da giugno dell'anno scorso e forse anche prima, cioè la complessità è tale che pensare di risolverla con un plebiscito o chiamando alle armi il leggendario popolo sovrano è il modo migliore per farsi male. Poi io ho già detto, infatti hai ragione, io sto seguendo meno, perché sinceramente mi capita di seguire su Financial Times, su Bloomberg, eccetera, anche sulla stampa britannica, ma ci sono dei livelli di pura italianità. Li hanno persino superati. Cioè questa settimana, due mattine fa, David Davis, che è il segretario del governo britannico per la Brexit, in una giornata parlamentare che si annunciava come infernale, perché la questione è: ci dovete dire formalmente, ci fate votare, sia se l'intesa siete in grado di raggiungerla nei tempi con l'Unione Europea, sia se non c'è, prima oppure no. Una questione di procedura. Deve si presenta alla commissione parlamentare e dice ridendo, come se fosse un platus voces, non una cosa che detta da quella per la carica che ha impegnativa, cioè mica è detto che vi facciamo votare. Allora la May è costretto a smentirlo, chiedono alla May poi: ma tu vieni in Parlamento a dircelo? Risposta: no. Ma allora, dice a quel punto il rappresentante dei Labour, il whip dei Labour, dice: ma voi lo sapete se ci fate votare tra di voi o no? Nessuna risposta fino alla sera. Cioè siamo a delle cose da... io non avrei mai creduto, Carlo Alberto, Mario, scusami, io non avrei mai creduto di vederle a Londra. No, ma io ripeto, la mia posizione oramai penso di averla consolidata e meditata. Io sono favorevole e faccio il tifo per la hard Brexit, la più hard possibile. Così la lezione arriva. No, ma quello, sai, è, l'aspetto pedagogico è a latere, però in quel caso andiamo a ratificare la volontà popolare, perché loro Brexit means Brexit, sono usciti, vogliono uscire, vogliono... è giusto che la sovranità popolare, per usare un tecnicismo da scuola di scienza politica, si rompa le corde. Io penso che saranno costretti a fare marcia indietro, perché non riesco a capire dove... Guarda, non c'è più una regia, non so, Carlo Alberto, che dici? No, io però devo fare un commento su come sta comprando l'Europa, che con la Brexit sta comprando bene, mentre con la Spagna poteva fare di più, poteva fare meglio, poteva intervenire prima, perché non è vero che è solo un problema spagnolo. Un equilibrio corretto del regionalismo e degli stati è nell'interesse dell'Europa. Sono d'accordo, però l'Europa attuale è solo un'unione di stati che hanno paura. No, lo capisco, e si è visto dalla reazione di ieri sera. Però mentre invece con la Gran Bretagna, secondo me, l'Europa sta dando dimostrazione della rule of law e delle regole. Barnier sta gestendo con grande forza e grande lucidità, e devo dire che è la dimostrazione che tutto sommato c'è qualcosa di più che una accozzaglia di stati. Sta nascendo un corpus giuridico e politico che richiederà anni. In effetti sono anch'io ben convinto che Barnier stia facendo bene, e il problema è che io mi preoccupo di Londra, cioè quello che è evidente è che non c'è il tempo per raggiungere un accordo dell'ampiezza di quelle materie, ma soprattutto il problema è che il Regno Unito, cioè il partito conservatore della May, per essere chiari ed essere precisi, non ha un'idea precisa di dove andare a parare su troppi argomenti importanti, perché è terrorizzato dalle conseguenze economiche nel breve, solo che non può dirlo e non può ammetterlo. Finirà come con la Norvegia o col Canada, cioè un accordo di libero scambio forte e una forma di coordinamento politico, e forse è anche la cosa giusta. Io diversamente da Mario mi auguro una Brexit coordinata, perché alla fine ma sarebbe nell'interesse di entrambi, sia dell'Europa che loro, però io non riesco a capire. Io spero che cambi il governo, lo dico sinceramente, cioè ci sarebbe bisogno di nuove elezioni politiche. Lo so che fa ridere, però quel governo non è oggi in grado di gestire un dossier di questa complessità, lo dico con grande amarezza, però è così, e lo dico sapendo che anche il Labour di Corbyn dice e non dice, perché anche loro, in realtà anche Corbyn dice: ci fosse il referendum non vi dico come voterei, quindi per dirla tutta. Quindi è un paese che si è avviluppato in una grande confusione di fronte a un esito del referendum che nessuno si aspettava. Questa è la vera verità. Tutti hanno fatto a gara nel dire andiamo andiamo, e poi dice oh, e adesso torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati qui, 11:23, primi 39 secondi, per un ragionamento e per una riflessione invece storica. Anche questa puntata abbiamo iniziato dopo l'estate, ogni tanto ad approfittare degli anniversari, il 500esimo della rivoluzione luterana, e si è capito che noi ti vorremmo che in realtà non fosse mai finita, ce ne fossero state più influenze nel nostro paese, poi i 100 anni della rivoluzione bolscevica e i 100 anni oggi anche di un evento che è uno dei due elementi topici della storia dei fallimenti delle classi dirigenti italiane nelle guerre, e che però in Italia sono sempre coperti da un velo non storicamente corretto, perché questa settimana c'è stato, sono i 100 anni di Caporetto. Io appartengo ancora alla generazione di coloro che hanno cominciato la scuola elementare il primo giorno con Bella Ciao, indimenticabile, cioè l'inno della Repubblica Italiana era Bella Ciao nella mia scuola elementare Mirafiori Nord di fronte alla Fiat nel 1965. E poi più avanti però c'era la leggenda del Piave, non so quanti di voi, non credo che i ragazzini lo facciano più cantare a memoria, il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi vanti del 24 maggio e così via, la cui retorica era ovviamente che i muri passavano quella notte, tacere, bisognava andare avanti. I Caporetto mai esistita, la resistenza del Piave è quella che poi ci porta alla gloriosa vittoria. Ma quale gloriosa vittoria? Il 4 novembre della prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, sintesi di una capitolazione dei doveri elementari delle classi dirigenti italiani, come è Caporetto, ma non viene ricordata così, è l'8 settembre. Quindi per me questa è la maniera in cui si, tra virgolette, manipola la storia nel nostro paese. E a questo proposito, tant'è vero che Carlo Alberto su questa materia è uno di quelli che dice che la prima guerra mondiale l'Italia non l'ha mai vinta, vero Carlo Alberto? No, l'ha mai vinta, si è collassato l'impero austro-ungarico e noi abbiamo riattraversato il Piave, se posso dire. E questo non possiamo tacerlo alle nuove generazioni che tutte le mattine incontrano nelle piazze, nelle strade d'Italia, l'onore a quei caduti. L'Italia non ha mai vinto una guerra, questa è la verità. In compenso la perdita di Caporetto è una perdita che ci costringe a riflettere. Quest'estate sono passato nella Conca di Plezzo, sono stato in Montenero, sono stato al Museo di Caporetto proprio per onorare e per ricordare, perché se non capiamo, io ti sto chiamando dal Castello Svevo di Bari, Oscar, cioè la sintesi di un rapporto fra Italia e Germania che rimanda a Federico II, a un momento in cui il Sacro Romano Impero faceva luce nel mondo. E mi ricordo quando ci uccidavamo reciprocamente, sterminavamo coi gas nella Conca di Caporetto. Ecco, a me sembra che abbiamo bisogno di capire in questo senso, in questo centenario, che cosa è oggi il nazionalismo, ne parlavamo prima, caro Alberto, e che cos'è un progetto d'Europa. Ma te l'hanno segnata a memoria l'agenda del Piave o no? No. sì, e devo dirti, la storiografia di noi ragazzi era la storiografia della grande nella storia, leggenda recitato a memoria, nella leggenda del Piave c'è scritto, e io ripetevo anch'io come un cretino, ma una notte triste si partì di tradimento e il Piave udiva l'ira e lo sgomento. Ah, quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto per l'onta consumata a Caporetto. Il tradimento era quello dei soldati, perché fin dal 28 Cadorna scrive il suo vergognoso comunicato in cui fa capire che si sono arresi i soldati, perché poi, come testimoniato, no, negli atti della commissione d'inchiesta che si fa nel 2018 poi finisce il suo lavoro nel 2019, la versione ufficiale sarà che è la propaganda socialista e la propaganda del Papa quella che ha minato i reparti, e invece nessuna parola sul fatto che avevamo delle guide militari non all'altezza, niente truppe di riserva, tutto in prima linea, i turni più lunghi di presenza in trincea, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Però chi siamo noi per parlarne? Quindi oggi abbiamo convocato uno dei più grandi storici italiani, un più grande storico italiano nel senso che è brillantissimo anche nel comunicare, a tal punto che ha una pagina Facebook di fan che si chiama Alessandro Barbero, noi ti siamo vassalli. Quando grande Alessandro, grandissimo. Quando si arriva a questo vuol dire che siamo oltre l'Accademia, abbiamo bucato il muro della comunicazione, che è una delle grandi cose che secondo me l'Accademia deve fare, perché se fa questo svolge ancor meglio i propri doveri, che sono corretti, di ricerca filologica, di divulgazione dei libri scientifici, ma anche la comunicazione. Grazie di essere con noi, professor Barbero. Grazie a voi, buongiorno. Allora, anche lei ha scritto un libro su Caporetto, e allora io ho un'opinione radicale, siccome da appassionato di storia militare leggo tutto quello che... ho un'opinione radicale. Ancora oggi noi non abbiamo fatto chiarezza sufficiente, perché la storiografia italiana del secondo dopoguerra ha proceduto con troppa ideologia, le maree di libri revisionisti rispetto al grande mito di Caporetto, non responsabilità delle classi dirigenti italiane, militari, è diventato di volta in volta la lettura contrapposta sui fenomeni sociali collegati alla condizione delle truppe, per così dire. E lo sa meglio di me, non devo ricostruire a lei l'ondata successiva storiografica. Ma perché nel nostro paese ancora non riusciamo a dire la verità fino in fondo? Non avevamo capi militari all'altezza nel 1917, come l'8 settembre abbiamo avuto un paese che scappava e ancora una volta le classi dirigenti italiane erano non all'altezza. Perché non si riesce a dirlo? Ma in realtà queste cose non è che non si riesca a dirlo, tant'è vero che lei le sta dicendo adesso. Ma io cose sono un cretino. Si dicono, ma su un rumore di fondo, su un rumore di fondo in cui tutti dicono di tutto. In realtà il nostro paese è il paese dove di fronte a una catastrofe nazionale come Caporetto, la prima cosa che si fa qual è? Si istituisce una commissione parlamentare d'inchiesta. Come sulla Banca d'Italia, esattamente. Ecco, cattivello, la strada è già segnata. Poi però la commissione parlamentare d'inchiesta in realtà non è vero che non abbia detto è colpa di Cadorna, è colpa di Badoglio, di Badoglio poco, ma di Cadorna si è detto che era colpa sua, di Capello, ma il problema è che in questo paese, e forse anche negli altri però, ma nel nostro paese di sicuro, di fronte a un disastro, la domanda è di chi è la colpa, ma di chi è nel senso di un individuo o di qualche individuo. Per me in quel caso era un sistema, ma un sistema e non invece per... è il sistema, esatto. Esattamente, quello sì. Sa, c'è questo di paradossale, che se la colpa è del sistema, gli individui sono meno colpevoli. Certo. Forse non ha senso andare a dire togliamo il nome bene. Di Cadorna alle vie, alle piazze. Cadorna era un uomo di valore che apparteneva però a un'epoca e a una classe sociale che non ha saputo gestire una sfida spaventosa, fra l'altro, perché per noi è facile adesso a tavolino individuare gli errori, non era certamente facile allora. Ma la colpa è di un sistema, è di una classe dirigente e di un paese in gran parte ancora arretrato, che però credeva di essere una grande potenza. Quello è il problema. Perché Alessandro, tu hai scritto pagine bellissime sul modello organizzativo. Volevo chiederti, tu hai scritto pagine bellissime sul modello organizzativo, il modello tedesco, inclusivo, in cui gli ospiti ufficiali parlavano per soldati, in cui c'era un atteggiamento molto molto partecipato rispetto al verticismo, fammi dire, della classe dirigente piemontese, sabauda, verticista, molto simile a quello asburgico, ma che il modello germanico tedesco invece ha proprio sparagliato. È a questo a cui fa riferimento. E certo, lì è lo scontro con la modernità, cioè ci sono paesi moderni come la Germania, dove la modernità sta anche nel fatto appunto che gli ufficiali mangiano lo stesso arancio dei soldati, e invece ci sono paesi che questa cosa non la fanno nella prima guerra mondiale e nemmeno nella seconda. Esatto, ufficiali a cui è consentita paesi... la varietà di libertà di interpretazione tattica sul campo, mentre a noi questa cosa era sconosciuta. E certo, perché da noi non si insegna, come dire, a prendersi delle responsabilità, anzi, quello che tutti i militari imparano è mettiti le spalle al coperto, non è colpa mia qualunque cosa sia successa, io ho obbedito agli ordini. L'esercito tedesco è un esercito dove si insegna ai giovani ufficiali che per prendere le medaglie bisogna, esatto, non dico disobbedire, ma cioè, fare di propria iniziativa quando gli ordini Rommel non ci dopo sono. Caporetto riesce a fare 44 chilometri con 52 ore di continuata combattimento, mettendo fuori servizio battaglioni su battaglioni italiani e con più di 900 prigionieri. Ma perché? Perché aveva la delega per poterlo fare. Se fosse stato un ufficiale italiano, finiva fucilato. No, ma questo è così, e del resto nei libri dei generali tedeschi su Caporetto continuamente vengono menzionati dei tenenti, noi conosciamo Rommel perché poi è diventato famoso, ma continuamente ci sono tenenti oggi sconosciuti di cui si dice ha preso il comando di una compagnia, di un battaglione, di sua iniziativa ha attaccato, ha chiesto il supporto di artiglieria e gliel'hanno dato, perché dei tedeschi un tenente di 20 anni telefonava al comando di divisione dicendo voglio attaccare quella montagna, datemi un supporto di artiglieria, e trovava gente che lo capiva. Nei nostri comandi era una cosa impensabile. Allora, però, io ritengo anche che ancora oggi è necessario essere duri, perché ancora oggi ai ragazzi gli si dice l'eroica resistenza sul Piave e poi la vittoria del 4 novembre. Allora, l'eroica resistenza sul Piave, in un esercito in cui un soldato su 12 ha avuto un procedimento disciplinare e uno su 24 è stato condannato, cioè la percentuale più alta di tutti gli eserciti dell'intesa, questa è stata l'Italia, cioè gestito con il pugno di ferro, 4.028 condanne a morte, 750 eseguite. Allora, in realtà i francesi hanno retto a massacri incredibilmente più gravi e seri di quelli del nostro fronte, però 160 chilometri di arretramento in 7 giorni con 300.000 prigionieri e la messa fuori combattimento, c'erano 1.700.000 soldati sul fronte, alla fine sul Piave fu possibile di quelli rimetterne in linea solo poco più di 700.000, era un esercito nuovo, diverso, era una nuova classe chiamata, erano nuovi reparti che si operava perché non comunicassero con quelli che erano stati sconfitti. Ma di queste proporzioni non ce l'ha avuta nessuno una sconfitta, è peggio di Gallipoli, di Churchill, almeno questa è la mia opinione, ma sentiamo con il professor Barbero tra un minuto. La natura di prima mano vi presenta Fratelli d'Italia. l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in diretta per vedere come è stato vissuto questo centenario di Caporetto. È con noi il professor Alessandro Barbero. Io mi limito a dire che condivido la conclusione di uno dei libri per il Mulino che è uscito, dedicato prima di questo centenario, di Nicola Labanca. Nicola Labanca ha scritto un volume, non è molto lungo, quindi vi garantisco che vale la pena di leggere insieme a quello ovviamente Alessandro Barbero. E Nicola Labanca conclude il suo volume dicendo: 100 anni dopo Caporetto, la nebbia della guerra rischia di calare di nuovo. La nebbia della guerra è un'espressione, diciamo, della poesia classica, epica, quella che Ares fa scendere sugli occhi di chi è nel campo di battaglia e poi riutilizzata da un grandissimo storico moderno della guerra, John Keegan, nei suoi volumi. Il perché io l'ho già detto, ma può essere che io sia un estremista, professor Barbero, sul fatto che nelle scuole ancora non si spiega la misura e le responsabilità di quel fallimento delle classi dirigenti italiane. O no, mi sbaglio? Ma io credo che la dimensione del fallimento, la dimensione della catastrofe sia evidente. Caporetto è una Caporetto, al di là del fatto che nelle scuole hanno ben altre cose di cui parlare, temo, e quindi i ragazzi di oggi non so se sappiano di Caporetto, ma sono poi forse un po' troppe le cose che noi pretendiamo che i nostri ragazzi sappiano. Ma anche parlando soltanto di noi adulti, che Caporetto è stata una catastrofe colossale, lo sanno tutti, tutto sommato, no? Quanto alle responsabilità, di nuovo, ancora oggi, quando io parlo in giro di Caporetto, nel pubblico, c'è sempre tanta gente che queste cose le sa, che ha letto dei libri. Poi regolarmente un signore alza la mano e dice: ma perché Badoglio aveva dato ordine di non far sparare i cannoni senza che lo dicesse lui? E allora, noi vogliamo sempre appunto il capro espiatorio. Quello che forse lei ha ragione, manca, è la riflessione sistematica sui difetti di un'Italia che allora era un po' peggio forse di quella di adesso da certi punti di vista, ma sotto altri punti di vista era uguale. La retorica, per esempio, la retorica di classi dirigenti, in questo caso militari, che scrivevano ordini del giorno e circolari dicendo: il fuoco di artiglieria deve essere sterminatore, la difesa deve essere eroica. Ecco, e questi generali nei loro uffici, che erano anche persone competenti in realtà, ma credevano di aver fatto il loro dovere emanando circolari. Questa è una cosa, credo, molto italiana anche oggi. Però attenzione, adesso scusi, credevano di fare il loro dovere, però io mi metto nei panni, dunque, tasso altissimo di sostituzione degli ufficiali. L'Italia inizia una guerra con 16.000 professionisti ufficiali e 30.000 territoriali, alla fine l'esercito di massa, l'Italia chiama sotto le armi più di 5 milioni di persone, vengono processate dagli uffici pubblici della mobilitazione e quindi si finisce con 180.000 ufficiali. Tasso di caduti negli ufficiali bassi molto molto molto elevato, la guerra di trincea è questo. Però se andiamo a vedere sopra, Barbero, il problema era ancora una volta il sistema, perché il signor Cadorna cambia più di, tra il 1915 e l'estate del 17, cambia più di 500 ufficiali superiori, più della metà generali, quindi stiamo parlando dalla divisione in su, e gli altri colonnelli, quindi dai battaglioni fino alla brigata, colonnelli e tenenti colonnelli, quelli vivevano in un sistema in cui o tu sbattevi i tacchi e scrivevi in quel modo o andavi a casa. Quindi questo è il punto. Verissimo, Cadorna licenzia, Cadorna silura, il risultato è che i soldati hanno l'impressione di essere comandati da incompetenti, perché certo, i reggimenti cambiano comandante ogni pochi giorni, un colonnello dopo l'altro viene mandato a casa con vergogna per incompetenza, esatto, molto spesso perché ha detto questa azione non si può fare, mentre invece quelli che ricevono ordini folli e dicono certo lo farò e poi non ci riescono, ma intanto i soldati sono andati all'attacco e si sono fatti ammazzare, allora quelli vengono promossi. Questo è verissimo. Questo però, diciamolo, la commissione d'inchiesta parlamentare lo dice, questo è stato detto. Quello che viene detto un po' meno è che nel nostro esercito gli ufficiali sono i signori ufficiali, perché quando si parla di loro anche nei documenti Verissimo. Dell'esercito il tenente è sempre Barbero, signor Alessandro. Alessandro, Giannino, signor Oscar, quel signor è fondamentale. E questi ufficiali devono essere borghesi, devono essere gente che ha un titolo di studio. Mai e poi mai si farà ufficiale un sergente che si è fatto 2 anni di trincea, che la guerra la sa fare, ma che ha la terza elementare. No, si prende un 19enne studente di istituto tecnico, gli si fanno 4 settimane di corso, li chiamavano i corsi di corsa, e poi lo si sbatte in trincea a comandare un plotone o anche una compagnia, perché gli ufficiali devono venire dalla classe dirigente e il popolo deve stare sotto. Questo sì che bisognerebbe dirlo. Si dice un pochino, qualche testimonianza c'è, la commissione d'inchiesta incontra un generale il quale dice: io una volta ho parlato con un soldato del mio paese, gli ho chiesto come andavano le cose, e quello mi ha detto: signor generale, siamo in mano alle creature. Perché ci mandano questi ufficialetti 19enni che non sanno niente. Però su questo un po' di riflessione sistematica ancora oggi giova, insomma, ecco. Alessandro, per saldarsi alla discussione sulla riforma luterana, l'esercito tedesco veniva da una storia di unità nazionale e di inclusione completamente diversa dalla raffazzonata unità d'Italia appena costituita. Noi abbiamo combattuto la battaglia divisa in battaglioni regionali, provinciali addirittura, che facevano fatica a capirsi e quindi avevano bisogno di una gerarchia per coordinarsi, mentre l'esercito tedesco aveva un modello assolutamente meritocratico, fammi dire, e guarda che la conserviamo a 100 anni di distanza, ancora oggi questa differenza nella pubblica amministrazione, dove conta l'appartenenza alla cordata e conta l'obbedienza e il merito non conta nulla. Ma ancora oggi, mi dispiace dirlo perché io sono amico e ho stima di chi negli ultimi 20 anni è stato protagonista in piccolo di un fortissimo, 30 anni oramai dai tempi del Libano, dell'adeguamento della struttura militare, della concezione anche della dottrina della struttura militare italiana. Detto questo, basta vedere che tipo di sottufficiali abbiamo noi nelle forze armate e innanzitutto nell'esercito, la quantità di marescialli che sono diversi dai sergenti operativi sul campo, per capire che, mi dispiace, nella lunga durata i difetti delle classi dirigenti italiane restano e si buttano sulle spalle degli italiani come se fossero invece delle tare ataviche, esattamente come fece il primo comunicato di Cadorna del 28 di ottobre, quello in cui diceva che i reparti della seconda armata siano vilmente arresi senza combattere agli austriaci. E leggendo le carte degli interrogatori dei generali, degli ufficiali generali, troverete che molti di loro, e questo ha ragione Barbero, è molto interessante leggere quelle carte, anche se poi non hanno avuto l'eco necessario in Italia, molti di loro si riconoscono in questa cosa, dicono questa teppa di socialisti arredisti, ma molti altri no. Questo è il bello, quindi c'era un'Italia perfettamente in grado di esprimere leadership diverse, se solo i sistemi per dare i comandi e responsabilità maggiori fossero diversi. Io credo che questo problema fosse gravissimo allora, ma resti ancora aperto oggi. Resta ancora aperto oggi, però appunto non esageriamo, l'Italia aveva dei limiti e ha dei limiti strutturali. Io ricordo una frase del generale Capello, comandante della seconda armata che viene spazzata via a Caporetto. Prima di Caporetto c'è una frase di Capello che dice: la nostra artiglieria è vecchia, non funziona bene, ha dei regolamenti antiquati, un sacco di sciocchezze, ma d'altra parte fra i nostri ufficiali di artiglieria ci sono più avvocati che ingegneri. Allora, questo è vero ancora oggi naturalmente, e quanto ai sottufficiali, un paese che aveva il tasso di analfabetismo dell'Italia allora, è chiaro che tutti quelli che sapevano leggere e scrivere finivano negli uffici, e non avevi una classe di sottufficiali fatta di capi operai, capi reparto, piccoli proprietari, come poteva avere un paese più avanzato come la Germania. E quindi se hai pochi sottufficiali preparati non gli affidi responsabilità, è tutto collegato. L'Italia di allora non era una grande potenza, era un paese con una borghesia colta, agiata, ma con una cultura soprattutto umanistica e soprattutto molto ristretta rispetto alla massa analfabeta. Ma allora lei forse non è troppo cambiato. Mi regala un'altra bella conclusione, traendo spunto da Caporetto, cioè l'Italia che ha giocato da Crispi in poi a fare la grande potenza, e l'Italia, i cui classi dirigenti da destra, travolte dal fatto che poi arrivano sulla scena della storia a chiedere i loro diritti, i socialisti e i cattolici, regalano l'Italia al fascismo. aver giocato al nazionalismo da grande potenza, cari neonazionalisti attuali che volete il ritorno all'autarchia, si leggono sui social delle cose spaventevoli. In questa settimana ho letto che per tornare alla moneta unica l'Italia deve tornare a produrre di tutto, dalle armi al pane. C'è gente che ripristina queste scemenze, eh? Persino Fausto Panunzi ha detto: beh, siamo alla follia, ragazzi. Allora, detto questo, all'Italia ha regalato un bel po' di vittime e disastri questa storia del nazionalismo della grande potenza, perché non ne avevamo, al di là di cosa possiate pensare dell'imperialismo, non ne avevamo i mezzi, gli strumenti e le classi dirigenti, perché si può essere imperialisti come il Gran Bretagna e si può essere imperialisti straccioni come siamo stati in definitiva noi. Grazie al professor Barbero, noi torniamo tra poco. L'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci qua, dopo aver ricordato i fasti di un paese, nessun paese di fronte alle sue sconfitte ha avuto ordini di servizio e disposizioni come quelle firmate dai comandanti italiani nel post Caporetto. Pensate, il comandante della Terza Armata, Emanuele Filiberto di Savoia, firma un ordine ai comandanti di, lui è comandante della Terza Armata, ai comandanti di corpi d'armata e divisioni della sua armata, così costituito, così concepito: artiglierie e mitragliatrici appositamente scaglionate sparino sui fuggiaschi. Ecco, nemmeno in presenza delle più grandi sconfitte, guardate, comprendo persino le parole di Hitler di fronte alla resa della Sesta Armata di von Paulus a Stalingrado, nessuno ha avuto alla testa militari e classi dirigenti come quelle italiane che di fronte a Caporetto, invece di assumersi le proprie responsabilità, se la prendono con i loro sottoposti dopo averli mitragliati. Questo riflettiamoci, visto che anche noi e io siamo stati da picco ci hanno fatto marciare dicendo l'eroica cosa del Piave e così via, però queste robe qui non ce le hanno spiegate nella scuola italiana. Allora, Udo Gumpel, grazie di essere con noi in questi ultimi minuti, come stai? Bene, bene, sono a Villa Pamphili a Roma, c'è una giornata stupenda, non piove, vedi, come al solito, perciò. Senti, ma io noi ti abbiamo rotto le scatole, perché tra le tante cose che teniamo d'occhio questa settimana abbiamo letto una cosa che sembrerebbe un passo avanti, ma te ne chiedo conferma se sia vero o meno, perché io l'ho letto su la radio, il sito della radio tedesca, e poi ho visto che anche Spiegel se ne occupa. È vero che nel frattempo nel negoziato che è appena agli avvii per formare il governo in Germania dopo le elezioni si pensa davvero, dopo l'uscita di Schäuble, questa è stata la settimana in cui Schäuble ha esordito la testa del Parlamento, bellissima la cosa dei dipendenti del ministero con quello 0%, bellissima, francamente bellissima. Ma ho letto che pur di non accontentare la richiesta dei liberali, di Lindner e di Kubica, di prendersi il ministero, si penserebbe alla seguente faccenda: bene, lasciamo alle finanze il budget, il bilancio e le tasse, ma le competenze nei rapporti con l'Europa per l'euro ce le prendiamo noi democristiani all'economia, è vero? Sì, è vero, questo progetto c'è di spaccare in due il Ministero delle Finanze e dell'Economia, che era già un ministero molto potente e appunto sotto Schäuble, e adesso per mantenere la posizione europea saldamente pro-europea, ovvero linea Schäuble, anche se qua non hanno ancora capito che Schäuble era il più forte europeista del governo, allora per togliere a Christian Lindner, ai liberali che sono forse abbastanza vicini a quello che in Italia si dice ordoliberali, che è una parola che io detesto perché in realtà è inesistente, ma comunque l'idea c'è di staccare, di sigillare la stanza dei bottoni europei, in modo che i liberali, che devono anche riabituarsi a governare non un paesello e fare propaganda, ma di governare l'economia politicamente e economicamente più forte, con la maggiore responsabilità per la tenuta della comunità europea, di non avere neanche l'accesso alle stanze europee. E questo progetto, sì, è vero. E io spero che avvenga, però mi chiedo se Lindner possa mai accettare. Io non ho capito una cosa, ma che tipo di aspettativa si può avere? Quando entrerà nel merito questa cavolo di trattativa? Con che tempi si forma sto governo, secondo te, Udo? Guarda, io direi che è un 50-50 se questo governo si forma, perché non vorrei, però è possibile che per esempio Schulz, no, il capo dell'SPD, sonoramente battuto, che però risorto dalle ceneri e con la vittoria miracolosa al 35% nella regione della Bassa Sassonia, regione che peraltro ha lo stesso numero di abitanti possa dire... della... possa risalire. Schulz ha detto noi non ci siamo per una riedizione della grosse coalizione, se qui... voi fallite, perciò io voglio elezioni 9. Andremo avanti e vedremo. Andremo a 9 elezioni tipo Spagna. Oh mamma mia, no.